Storiacce d'autore, a cura di Raffaella Calandra, in collaborazione con Milano Nera. Uno scrittore, un fatto vero e un testo composto proprio per noi. Ogni domenica in queste storiacce la cronaca la ascolterete dalla voce e dalla penna di un autore, sempre a partire da un fatto vero. A Vetrana, 26 agosto 2010, denunciata la scomparsa di una quindicenne di nome Sara. Storia reinventata di un delitto vero. C'è questa ragazzina, 15 anni, si chiama Sara. Sara senza l'H finale, perché questa Sara non c'entra nulla con quell'altra più nota. Questa Sara non esiste, ce la stiamo solo immaginando. Lei è una ragazzina sveglia e tranquilla. Vive in un paesino sparpagliato in mezzo alle brulle campagne dell'entroterra ionico. Gente semplice, vita scandita dal ritmo delle messi. Un posto da cui Sara prova spesso l'impulso di scappare. Però ci ripensa sempre, è il luogo in cui è cresciuta e a queste quattro strade asfaltate che l'estate torrida di quest'angolo di Puglia rende roventi e il gelo d'inverno tramuta in un manto rorido e fangoso, Sara vuole bene, ci è affezionata, sono la sua casa. È tranquilla Sara, anche se da qualche tempo si porta appresso dei pensieri brutti, dubbi che rannuvolano la sua spensieratezza. Sara però è tranquilla perché anche se papà vive lontano col fratello per lavoro, ha un sacco di gente che le vuole bene attorno. La mamma, anzitutto, e il nonno, le amiche, qualche vicino. E poi c'è Sabrina, Sabri, sua cugina adulta, 22 anni. Anche lei volitiva, ironica e un po' sovrappeso come l'altra, quella dei giornali. Però questa Sabrina con quella là non ha niente a che spartire. E a Sara piace consumare il vuoto pneumatico delle serate di provincia assieme agli amici di Sabrina, tutti più grandi di lei. Da qualche tempo ha l'impressione che sua cugina le riservi sguardi un po' troppo affilati. Parole sferzanti che pungono, talvolta feriscono. E lei mica lo capisce bene il perché di tanto veleno. Forse si tratta di Ivano, un ragazzo con la barba che somiglia tanto a quell'altro, quello vero, la Lendelon di Avetrana. C'ha la fissa Sabrina per questo bel giovanotto pacioso, spalle taurine e sguardo rassicurante. In questa nostra storia capita che lui si affezioni a Sara, forse perché lei è piccola e inoffensiva, non importa, è tutto finto. Ivano le sorride e questo basta a scombussolare i sentimenti di Sabrina. Perché Sara sembra crederci e nella sua mente, ancora pura, quei sorrisi si amplificano senza controllo. Ci sono poi altre avvisaglie di sventura, alcuni gesti dello zio, il padre di Sabrina, che non le sono piaciute affatto e di cui vorrebbe parlare con la cugina. E così una sera, nell'unico pub cittadino, Sara rivela nell'orecchio di Sabrina ciò che la inquieta. Le dice tutto, ma proprio tutto. Le parla di Ivano e di quanto le sembra ingiusto venire maltrattata per cose di cui non sente di avere colpe. E poi le accenna dello zio. In questa storia inventata, la ragazza più grande accoglie le parole della cuginetta dapprima con sgomento e incredulità. S'azzittisce, Sara è spaventata. S'affretta a chiederle scusa, ma una nota della sua vocina fa comprendere a Sabrina che qualcosa di sgradevole sta succedendo tra loro. E così, il giorno dopo, Sabrina affronta il padre. E in questa storia inventata, la figlia comprende che suo padre ha bisogno di aiuto. Aiuto che lei in prima persona si offre di trovargli. Però sarà dura, questo la ragazza lo intuisce subito. Ci sarà da lottare. E tutta la famiglia dovrà rivedere alcune posizioni. Un compito ingrato che condurrà a un mare di sofferenza. Ma alla fine andrà bene. La 22enne chiama Sara al telefono. Le dice di venire a casa sua per andare al mare come fanno ogni giorno. E quando la piccola la raggiunge, lei si fa trovare sulla soglia del garage e comincia a parlarle. Le spiega che non deve preoccuparsi della storia di Ivano, perché alla sua età è facile credere di essersi innamorati. Ma poi le cose cambiano. Quanto a lei, la faccenda è diversa. Ci ha pensato tutta la notte. Sono adulti lei e Ivano. Prima o poi si capiranno. Poi Sabrina si ferma, le racconta alcune cose dello zio, cerca di tranquillizzare la piccola ma forse anche se stessa, e infine sorride. Le due cugine si stringono le mani, si abbracciano. Di lì a poco arriva Mariangela, l'amica con la macchina, e insieme corrono tutti in spiaggia. Al contrario che in quell'altra maledetta storia, in questa non si consumano violenze, né c'è alcuno spargimento di sangue. Non c'è nessuna troupe televisiva che assalta il paese. Non ci sono orde di profilers, criminologi, psichiatri e investigatori dell'anima. Non c'è alcuna giornalista glamour. Non c'è traccia di orchi, né plastici di villette, né avvocati logorroici. C'è solo una ragazza tranquilla, che vive i travagli della sua adolescenza in un pezzetto d'Italia ubicato ai margini estremi dell'impero. È una storia come tante, questa. Ed è una storia inventata, però poteva essere vera. E chissà che la prossima volta qualcuno non preferisca raccontarla così. Omar di Monopoli, in libreria con La legge di Fonzi. ISBN edizioni, 293 pagine, 14 euro.